riguardo al sublime Corano. Cos'è il sublime Corano? Il sublime Corano è il libro di Allah l'Altissimo, che in arabo si dice Kitabullah, che contiene la parola di Allah, che in arabo si dice Kalimatullah e anche Qaulullah. Cosa significa la parola Corano? La parola Corano è la latinizzazione della parola araba Qur'an, che significa recitazione salmodiata della rivelazione. Chi è l'autore del sublime Corano? L'autore del sublime Corano è Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Cosa rivela Allah l'Altissimo nel sublime Corano? Nel sublime Corano Allah l'Altissimo rivela all'uomo le caratteristiche essenziali della propria identità divina, la natura della condizione umana, il significato escatologico della vita terrena, il destino ultraterreno dell'uomo, le linee fondamentali del codice di vita, la cui osservanza assicura all'uomo, non senza la misericordia divina, l'accesso al paradiso nella vita futura e la disobbedienza alle norme del quale sono causa di caduta nell'inferno. Nel sublime Corano, Allah l'Altissimo accredita Muhammad, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, come suo apostolo e profeta, proponendolo all'uomo come titolare dell'autorità di dettare precetti e regole di condotta complementari al sublime Corano, come modello di comportamento, maestro di dottrina e di vita, esempio e guida ai credenti in Allah, sia gloria a Lui Altissimo, e al destino ultraterreno dell'uomo. Quando è avvenuta la rivelazione del sublime Corano? La rivelazione del sublime Corano è avvenuta nell'arco di tempo intercorrente tra l'anno 13 prima dell'Egira e l'anno 10 dopo l'Egira. Come è avvenuta la rivelazione del sublime Corano? La rivelazione del sublime Corano è avvenuta a Brani tramite l'angelo Gibril. Quanti sono e come si chiamano i capitoli del sublime Corano? I capitoli del sublime Corano sono 114 e si chiamano sure. Come si chiama una unità base di rivelazione coranica da cui sono costituite le sure? L'unità base di rivelazione coranica da cui sono costituite le sure si chiama aya, che al plurale fa ayat. Come si chiamano le sure rivelate prima dell'egira e come si chiamano quelle rivelate successivamente ad essa? Le sure rivelate prima dell'Egira si chiamano sure meccane e quelle rivelate dopo l'Egira si chiamano sure medinesi. Le prime sono così chiamate perché rivelate alla Mecca e le seconde perché rivelate a Medina. Quando e dove è avvenuta la prima rivelazione coranica? La prima rivelazione coranica è avvenuta nella notte del destino, probabilmente il 27 del mese di Ramadan, nella grotta del monte Hira, nei pressi della Mecca, nell'anno 13 prima dell'Egira. Come si chiama la prima sura del Corano? La prima sura del Corano si chiama Al-Fatiha, che significa l'aprente, ed è costituita da sette ayat. Qual è l'importanza della prima sura del sublime Corano? Essa ha una importanza fondamentale, perché la sua recitazione è essenziale per la validità del rito di adorazione. Quali sono i contenuti della prima sura del Corano? Essa si divide in tre parti. La prima parte insegna le caratteristiche fondamentali di Allah, titolare in esclusiva del diritto alla lode, Signore dell'universo, sommamente misericordioso verso le creature, clementissimo verso i musulmani, giudice nel giorno del giudizio. La seconda parte riguarda il rapporto tra l'uomo e Allah, nel quale l'uomo deve adorare solo Allah e deve invocare in soccorso solo Allah, che è l'essenza dell'Islam. La terza parte riguarda l'uomo che deve chiedere ad Allah di essere guidato sulla retta via, che è la via percorsa da coloro su cui Allah ha infuso la sua grazia e non quella percorsa da coloro che hanno provocato l'ira divina, né quella di coloro che sono in errore riguardo alla natura divina. Il codice di vita coranico è suscettibile di aggiornamento, modernizzazione, migliorie? Il codice di vita coranico non è suscettibile di aggiornamento, di modernizzazione, di migliorie, perché nessuna creatura è in grado di pensare norme di vita migliori di quelle dettate dal Creatore, il quale, nel dettarle, aveva davanti a sé l'esistenza dell'uomo dall'inizio alla fine di tutti i suoi aspetti, mentre gli uomini sono condizionati dal tempo e dallo stato delle loro conoscenze.